Ma io dico due cose brevissime che un po' riflettono, approfondiscono l'esperienza teorica di della libertà critica al guadagno. E cerco di essere proprio netto netto. La prima è la seguente: l'agricoltura non esiste più, non ci sono palle, l'agricoltura non esiste. O si prende atto che c'è questo processo di morte definitiva dell'agricoltura o non ne usciamo più. I modelli di vita, i tempi, i modelli di lavoro, tutto ciò che si è affermato in ciò che ancora oggi si chiama campagna dipende esclusivamente dall'egemonia che la città ha avuto su tutto il pianeta. Quindi tutto ciò che si è affermato negli spazi iperurbani dipende esclusivamente dalle città. Questa è una presa d'atto che va fatta fondamentale, perché ciò che sta avvenendo in ciò che ancora amiamo definire campagna è semplicemente un residuo che già ha conosciuto le esperienze capitalistiche tra il 700 e l'800, quando è stato distrutto l'artigianato. Quando tutto l'artigianato è stato distrutto e nascevano le grandi fabbriche capitalistiche, alcuni residui di manifattura artigiana sono rimasti e si sono consolidati e sono diventati, diciamo, di servizio esclusivo della grande borghesia che si andava affermando. Così è avvenuto anche nei paesi che avevano una grandissima esperienza artigianale, come per esempio era l'India. Sono rimasti piccoli tessuti artigianali che sono diventati tessuti artigianali d'élite che andavano a servire esclusivamente la grande borghesia. Il proletariato urbano, le masse contadine e quant'altro non hanno avuto altro da fare che vendersi alla grande industria e asservirsi ad essa. Ciò che è avvenuto nella prima grande trasformazione tra il 700 e l'800 è avvenuto definitivamente nel 900 e ha riguardato le campagne. Alcune esperienze di pazzi furiosi, come quelli che abbiamo sentito qua, che sono qualche migliaio in Italia, purtroppo pochissimi, e qualche decina di migliaia in giro per il mondo, sono lì a rappresentare che molto probabilmente succederà esattamente come è successo per l'artigianato tra il 700 e l'800. Rimarranno un'esperienza di nicchia, un'esperienza che sarà anche consolidata, ma che riguarderà una piccolissima elite della borghesia urbana, la quale utilizzerà questi prodotti, mentre il resto del proletariato o sottoproletariato, marginalizzato, precarizzato, eccetera, eccetera, continuerà, obtorto collo, a fruire, a cibarsi, ad avere ritmi della produzione industriale che non hanno nessuna agricoltura a riferimento, ma si chiamano, come dovremmo chiamarli, eliminando questa parola dal dizionario, agroindustria, agrochimica, bioindustria, biochimica, diciamo quello che vogliamo, ma non agricoltura. Sicuramente tutto ciò fa parte di un'altra terminologia che ha riferimento più l'urbe cultura, cioè le culture cittadine, che hanno trasformato, ripeto, rapidamente le città e il pianeta e lo hanno omologato ai propri sistemi di valori. Questo è avvenuto e continua ad avvenire nel mondo contemporaneo. Vi sono delle esperienze importanti, significative, come queste che abbiamo ascoltato e come tante altre che potremmo ascoltare in Italia, ma che corrono questo rischio. Direi più che rischio, sono pressoché inevitabilmente destinate a fare la fine del piccolo artigianato, ripeto, tra la fine del 700 e l'inizio dell'800. Ed è questo il motivo per il quale alcune esperienze politiche avevano e continuano ad avere, io credo, un significato eversivo. Perché vi sono certamente i difensori dei animali selvaggi, ok? Vi sono alcune leggi, alcuni mezzi di protezione, risultano per ciò che era l'agricoltura, ciò che gli zoo sono stati alla fine dell'Ottocento per la fauna internazionale, cioè delle riserve nelle quali mettere qualche leone, qualche tigre e dire guardate che erano belli, adesso non esistono più, ma guardate che erano belli, li facciamo vivere in cattività per qualche decennio fino a quando ci dimenticheremo che esistevano questi merdosi di leoni e finalmente potremo far vivere altri elementi fauni. Questo sta avvenendo in tutto il mondo. Per cui dicevo, Vi sono delle esperienze di grande significato politico, che non a caso sono state nel cuore del cosiddetto movimento dei movimenti a livello internazionale, che finalmente ha avuto, diciamo, nel suo cuore propulsivo l'aspetto del cibo, l'aspetto della socialità, l'aspetto dell'agricoltura, l'aspetto della contadinità. Ed è effettivamente nata una esperienza, certamente molto fragile, che noi abbiamo definito di contadinità planetaria, che, badate bene, non nasce dalle campagne, non nasce dalle campagne, nasce dalle città, perché è dalle città che prende questo moto e trasforma le campagne. Perché per i vecchi contadini, quelli che poveracci uscivano dalla riforma agraria degli anni 50, non c'è stata nessuna possibilità, non c'è stata nessuna possibilità. Hanno utilizzato diserbanti e prodotti chimici molto di più di quanto utilizzavano gli industriali dell'agricoltura, erano costretti a fare questo. Quindi la nuova contadinità nasce dalle città. Sono coloro i quali hanno criticato profondamente i modelli urbani, li hanno rifiutato, hanno trasformato, hanno tentato di trasformare la città, hanno occupato le università, hanno fatto tutti i casini che abbiamo fatto tra gli anni 70 e 80. Una parte di questa esperienza si è riversata nelle campagne e ha fatto di tutto per trasformarla. Ha fatto di tutto, ma naturalmente quel tutto rimane poco. Rimane poco. Questo è il motivo per il quale è di grandissima rilevanza avviare filiere commerciali, filiere distributive, filiere produttive, che non facciano semplicemente operazioni di nicchia, non siano semplicemente, appunto, lo zoo, no? Che va riservato a pochissimi spettatori, ma che intrattengano una battaglia campale, perché di questo si tratta, una battaglia campale contro i modelli di urbe e cultura che si sono andate diffondendo a livello planetario. Questo dibattito, come molti dei compagni qui presenti, è stato un dibattito che ha, come dire, è stato presente in Terra Libertà Critica Wine, è presente anche altrove e genera anche moltissime contraddizioni, genera anche moltissimi, come dire, dubbi, moltissimi problemi. Io sono convinto, ripeto, che bisogna avviare questa battaglia campale. Perduta questa battaglia, continueremo a dire chiacchiere, ci diremo delle chiacchiere, così come gli artigiani, ripeto, questo esempio dell'Ottocento, hanno continuato a dire che loro sono bravi artigiani, facevano i servi, vendevano dei grandi vestiti, hanno fatto le stronzate che hanno fatto, ma naturalmente quelle esperienze hanno potuto fare, non hanno. La politica, è finito, la politica non ha idea di questa trasformazione che è avvenuta, non ha idea perché la politica, per forza di cose, bada chiaramente a rappresentare gli interessi della maggioranza. E gli interessi della maggioranza sono quelli che si cibano di McDonald's, sono quelli che si cibano... È questa la situazione, c'è poco da fare. Non è che la politica ha grandi torti morali ed etici. È fatto così, è costitutivamente fatto così. Quindi tra le tante, la Comunità Economica Europea ha favorito la concentrazione industriale, ha favorito la concentrazione in agricoltura, ha dato l'80% o di più dei fondi per l'agricoltura all'agrochimica, poi lo 0,02% lo dà all'agricoltura biologica, all'agricoltura biodinamica, all'agricoltura... Se ci fosse Terra Libertà Critica Guana a chiedere dei fondi, li darebbe, perché no? Perché, ripeto, sono gli scemi in un villaggio in cui tutti gli altri fanno i loro affari, no? La storia del capitalismo dimostra che, e questa è la grande forza di questo modo di produzione, che nel mentre si sviluppa una potente macchina che tritura tutti gli organismi della vita, viene mantenuta in vita qualcosa che ricorda anche l'antagonismo a quello sviluppo, ma che però è lì ritagliata in un angolo, in una nicchia, che magari si autorigenera in maniera consolatoria senza essere in grado di sviluppare un antagonismo effettivo. E l'antagonismo effettivo, in questo caso, cosa vuol dire? Vuol dire che queste esperienze che abbiamo ascoltato o sono in grado nei prossimi 20 anni di moltiplicarsi e di riprodursi all'infinito, trasformando la città, trasformando i modelli urbani, trasformando i ritmi di vita, trasformando gli stili di vita, trasformando gli stili di consumo, ma rendendo possibile a questi agricoltori di vivere, naturalmente, di avere redditi adeguati. Perché se questi agricoltori muoiono di fame, muore di fame il loro sistema produttivo. Se la cascina Caremma non è in grado di mantenere quel sistema produttivo, di pagare i salariati come è giusto pagarli, con ritmi e contratti collettivi, insomma, con tutto ciò che può derivare dalla dignità del lavoro agricolo. Cioè non perde la cascina Caremma alla battaglia, è tutto un sistema produttivo che viene battuto, oppure, ripeto, si alimenta in quella nicchia. È questo che va fatto, è questo che va sostenuto. E allora, per questo la palla ritorna al centro della città. O le città sono in grado di comprendere ciò, di affermare questo nei loro stili di vita e di capire una cosa fondamentale, che è una seconda rivoluzione copernicana, veramente una seconda rivoluzione copernicana, e cioè che per mantenere la possibilità che la specie umana sopravviva, la specie umana deve finire di avere una visione antropocentrica. Questa è la seconda rivoluzione copernicana che deve avvenire. Ma figuriamoci se si può chiedere alla politica una cosa del genere. Cioè viene richiesta veramente una grande rivoluzione. Concepire una questione del genere, ripeto, che l'uomo non solo non è al centro dell'universo, ce l'aveva detto Copernico, non è neanche al centro della Terra. Non è al centro della Terra. Coopera assieme a una quantità enorme di forme di vita che coesistono e che devono mantenersi assieme all'uomo sulla Terra. Finché non c'è questa chiara concezione, e quindi viene rifiutato il modello antropocentrico, questo ritmo di distruzione che distruggerà la specie umana non può che perpetuarsi.